Mi occupo di urbanistica e di paesaggio. L'organizzazione dell'organizzatore della serata mi ha chiesto di fare un intervento proprio per definire il concetto di paesaggio, cioè quando noi parliamo di paesaggio a che cosa ci riferiamo. Questa cosa è molto importante perché noi storicamente abbiamo spesso confuso il paesaggio con il bel paesaggio, cioè la rappresentazione da cartolina. In realtà quando noi parliamo di paesaggio, quando la Convenzione europea parla di paesaggio, non intende questo. Paesaggio è la parte della costruzione che ha fatto l'uomo partendo dalla natura dove appunto si è insediato. Da sempre l'uomo ha modificato la natura, ha modificato l'ambiente in cui si trovava e quindi ha costruito il proprio paesaggio. Questa definizione è molto importante perché ci fa capire che il paesaggio è una produzione storica. Ogni epoca ha avuto un suo paesaggio. Noi possiamo trovare il paesaggio storico, quello sempre rappresentato nella pittura italiana, che fa definire l'Italia il bel paese. Quando Goethe arriva in Italia, riconosce questa intima connessione che c'è tra la natura e la costruzione dell'uomo e dà quella definizione bellissima che è rimasta a lungo, la più bella definizione del paesaggio italiano, che dice appunto che è una seconda natura che opera a fini civili. Cioè per Goethe quando arriva e vede il paesaggio italiano dice che questa natura è stata modificata così bene, così con rispetto, così attento alla natura, che sembra una seconda natura, però opera a fini civili. Quando diceva opera a fini civili, Goethe si riferiva principalmente al paesaggio agricolo, che poi il tema di questa sera. Quindi quando noi parliamo di paesaggio, quando sentirete d'ora in avanti la parola paesaggio, dovete riferirvi a questo, cioè alle modificazioni che l'uomo ha introdotto nella natura e quindi a una costruzione storica del paesaggio. Definire costruzione storica significa anche capire che questo paesaggio è trasformabile e quindi che ogni epoca ha creato un proprio paesaggio. Noi in questo momento stiamo guardando il paesaggio terrazzato, un paesaggio che è stato per lungo tempo un paesaggio produttivo, un paesaggio importantissimo per le zone in cui noi adesso viviamo, per il Trentino, ma anche per l'Italia, per ampi territori. Quindi questo paesaggio oggi ha perso parte della sua funzione, quindi è entrato in quel processo che si diceva prima di modifica storica. Quindi la storia sta cercando di modificare, ha modificato radicalmente questo territorio. In parte lo ha fatto attraverso l'abbandono. Gran parte del territorio terrazzato italiano è un territorio in abbandono, perché è difficile da raggiungere, perché l'agricoltura in questi luoghi è sempre più difficile, per tanti motivi. Quindi oggi il paesaggio terrazzato si sta lentamente modificando. Però nello stesso tempo oggi il paesaggio terrazzato è al centro di notevoli attenzioni. Quest'anno, l'anno prossimo, scusate, in Italia, ci sarà la terza conferenza mondiale sul paesaggio terrazzato. Un evento molto importante che ha per tema il futuro di questo paesaggio. Cioè bisognerà trovare nuove funzioni a questo paesaggio che appunto non potrà più essere utilizzato come è stato utilizzato prima. La conferenza avrà una sede plenaria che è a Venezia e poi avrà tutta una serie di sedi locali, tra le quali c'è il Trentino, in questo gruppo di lavoro c'è il sindaco di Villa Lagarina, Romina Baroni, ci sono varie persone che appunto stanno organizzando per quanto riguarda la conferenza i vari eventi che si troveranno sul territorio in Trentino. Ecco, quindi finisco qui, lascio spazio ad altri, ci sono tanti, tanti interventi, però quello che si voleva far passare è appunto questo concetto molto, molto importante. Il paesaggio è un prodotto storico e come prodotto storico richiede una modifica e ogni epoca è riuscita a imprimere nel paesaggio il proprio segno, il segno della propria epoca. Per i paesaggi terrazzati ci viene richiesto per il futuro di trovare una nuova destinazione. Buonasera, io sono Giancarlo Manfrini, io mi occupo... C'è anche il microfono. Ma Luca si sentiva, non so io se la voce... Pronto? No. C'è sotto, sì. Sì, dicevo, io sono Giancarlo Manfrini, mi occupo nello specifico di restauro, chiamiamolo architettonico, insomma, mi occupo di muri a secco, anche come formatore, e tanto che abbiamo istituito una scuola della pietra secco, appunto siamo ospiti all'Accademia della Montagna, dove è stato istituito appunto questa scuola anche per formare, diciamo, artigiani, agricoltori, ma poi hanno partecipato anche all'Agenzia del Lavoro, nelle varie valli abbiamo seguito tutta una serie di corsi. E anche perché si è visto, insomma, che, come diceva Luca, questo paesaggio modellato nei tempi scorsi spesso era raffazzonato con cemento e quant'altro, per cui diciamo che la funzione paesaggistica veniva un po' rovinata. Il muro a secco ha una sua, diciamo, pulizia estetica e anche funzionale, nel senso che funziona molto bene dal punto di vista idrogeologico, funziona molto bene dal punto di vista naturalistico, perché si insinuano tutta una serie di animali e faune particolari, insomma, tipiche dei muretti, e per cui anche, diciamo, sia legato al restauro, tra virgolette, fatti negli anni scorsi, cioè interventi direi più fatti col cemento, oppure appunto che non hanno dato una continuità ai manufatti, che sono manufatti storici, per cui hanno bisogno anche di una sua collocazione, diciamo, nel paesaggio ben definita, e si è visto che c'era bisogno appunto di portare avanti questa, diciamo, questa linea un po' più pura. Io una quindicina di anni fa, quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, io sono dell'altro versante, ma di un versante da Noriglio in su, diciamo, di quella zona lì, c'è un terrazzamento molto, molto esteso ed è anche, a differenza della destra Adige, in gran parte abbandonato. Ecco, per cui, diciamo, una quindicina di anni fa, quando ho cominciato a pormi i problemi della ricostruzione dei muri a secco, spesso molti sorridevano, insomma, dicevano, sì, ma se c'è il cemento, a far su pietra. Però si è visto che i lavori fatti in cemento, si buttava lì un getto, una pietra lì, una là, insomma, decenti, insomma, tra virgolette, diciamo, oltre a non funzionare poi anche dal punto di vista idrogeologico, perché questi muri in cemento poi creano anche spesso delle dighe che non impediscono anche di fluire. Non voglio stare qui a fare a elencare tutte le qualità del muro secco, ma fra le più importanti, diciamo, anche se spesso, insomma, ancora c'è della resistenza riguardo, è che i muri a secco hanno sfidato i secoli. E il cemento, si dice, il cemento funziona tanto per la nostra generazione, molto probabilmente lasciamo debiti ai nostri nipoti, perché quella camminata che abbiamo fatto, c'è una bellissima camminata da fare della strada delle Terre Nuove, che parte da Rovereto e porta fino in valle, che sarà tra l'altro oggetto di restauro del comune di Rovereto probabilmente per l'anno prossimo. E camminando proprio con Luca, mi ricordo che noi passavamo sotto la provinciale e abbiamo visto questi getti di cemento fatti 50 anni fa, perché per stare nel ricordo, ero bambino, già marcio. Cioè noi ci troviamo a ereditare appunto dopo 50, metti anche 100, dei muri che saranno da rimetterci mano, insomma. Mentre quelle pietre tagliate a regola, e questo è il problema spesso adesso, come si taglia per bene una pietra? Perché io nei corsi vedo, sì, c'è vantaggio da fare per prendere la pietra, però sembra la cosa più banale, però tagliare una pietra con la mazzetta come si deve, quello è lo scoglio più grosso, cioè abbiamo perso manualità, abbiamo perso abilità, abbiamo perso memoria, insomma, una generazione, perché se andiamo dietro ai nostri nonni, questi quei padri li sapevano fare. E diciamo che sono riusciti a tagliare pietre e montare le pietre senza cemento fino al dopoguerra. Poi, vabbè, un po' in tutto il mondo c'è stata un'accelerazione su quattro soldi, bim bum bam, buttato via, ve la semplifico così, che forse è deficiente. Adesso insomma si comincia anche a dire, vabbè, vediamo il suo territorio, vediamolo come nella sua luce originaria, vediamo di metterci mano come si deve. Ecco, per cui a riguardo io suggerirei, posso darla lì così, in visione di questo prossimo convegno, sarebbe bello appunto che ci fossero anche cantieri sul nostro territorio, che funzionassero anche con questo spirito, in modo che il parlare che si farà, gli incontri che saranno anche da intellettuali o anche da esperti del settore, ma che lasciano impronta sul territorio anche limite con iniziative locali che possono essere il ripristino di certi sentieri oppure arrivare ai finanziamenti anche per ristrutturare appunto le murature a secco e arrivare appunto, è lo scopo tra l'altro della nostra scuola, arrivare a dare anche delle certificazioni di competenze per i costruttori a secco. Cioè sarà una figura, una sorta di maestro artigiano che sarà insomma qualificato con un suo percorso insomma sia formale che esecutivo, poi anche sul campo insomma. Per cui abbiamo fatto un primo corso, adesso ne attiveremo un altro in maggio dell'anno prossimo, tra l'altro verrà presentato il 15 all'Associazione Artigiani di Trento, questo è il secondo corso, e per arrivare appunto a questa certificazione. Perché spesso quando poi ci troviamo magari anche a progettare dopo opere pubbliche o quant'altro, anche nel piccolo e nel privato, spesso appunto abbiamo problemi di trovare chi lo sa fare, insomma. Di solito gli agricoltori sono sempre stati quelli che già lo sapevano fare, nel senso che non c'erano ingegneri che facevano calcoli statici o quant'altro. Lo stesso agricoltore, fra le sue competenze, aveva quella anche di saper fare un muro secco, di saper fare un manufatto, perché come diceva Luca, il paesaggio è stato costruito dall'uomo, ma spesso il paesaggio rurale è stato costruito da più uomini, ma che erano, avevano delle competenze molto ampie, da essere un falegname, essere un muratore, essere un contadino, insomma. Cioè, per cui, ecco, adesso noi tendiamo più a separare le specializzazioni, che va bene, voglio dire, se noi chiamiamo una ditta di muratori e vogliamo ricostruire un tratto di strada storica, è bene che sia gente che lo sa fare. Però appunto i nostri corsi sono anche aperti agli agricoltori, proprio per dare così quella che può essere una competenza generale del territorio, dove appunto il vero costruttore del paesaggio è il contadino, insomma. Un po' quello che mi piace sempre citare, anche perché l'ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita, Eugenio Turri, dove parlava appunto del quello che chiamava il paesaggio come teatro, dove il territorio era una rappresentazione teatrale, diciamo. E l'attore era quello che eseguiva, ma lo spettatore è quello che ne godeva. È chiaro che tu guardi, quando si guarda un paesaggio lontano, non si vedono i confini. Questo è uno, questo è dell'altro, questo è dell'altro, si vede una continuità. Ecco, allora cos'è che diceva? Sì, l'attore che costruisce, lo spettatore che ne guarda, però spesso anche l'attore si dovrebbe allontanare e vedere cosa ha fatto, fare lo spettatore, perché è un po' come se tu sei così, non vedi quello che hai fatto, ma io me ne rendo conto anche nel mio piccolo, quando faccio certi interventi, tu fai il lavoro, ma ti allontani a guardare cosa hai fatto. Cioè, una percezione, diciamo, tipica della rappresentazione, diceva tu. Ecco, per cui quando sono presenti questi concetti paesaggistici legati anche appunto anche magari a questa perizia tecnica nel costruire questo paesaggio, chiudiamo il cerchio appunto. Penso che appunto questo sia anche lo scopo di questa iniziativa. Non so, potrebbe dire altro, ma mi sa che compartiamo così. Sì. Grazie. Bene, mi chiamo Nicola Sordove e abito a Castelteesino, quindi parlerò, come mi ha chiesto Davide, che mi spiace non sia qui, ha chiesto di parlare di un'esperienza che ho raccontato in questo libro che ho in mano, si intitola Un mondo dove tutto torna, la memoria, sottotitolo, la memoria locale come strumento per la cura e la riprogettazione dei territori. Allora, cercherò però di collegarmi a quello che è stato detto. Noi in Teesino, in sostanza, l'esperienza si può sintetizzare in questo modo. Noi andiamo dagli anziani della casa di riposo, delle case di riposo in realtà di Castello e di Pieve, nei circoli anziani di Castello e di Cinte, e dagli anziani che non si trovano né nel circolo pensionati né nella casa di riposo, e considerando queste persone come depositari di informazioni sul territorio. Intervistandole captiamo queste informazioni. Quando dico informazioni, intendo informazioni di alta qualità, di alto livello, e sono quelle informazioni che per esempio solo una persona di una certa età che ha fatto in tempo a vivere certe esperienze, tipo avere le galbare, noi le chiamiamo galbare, come si dice qui? Sgalbare. Solo una persona che ha portato veramente nell'uso quotidiano queste scarpe può raccontare di cosa vuol dire avere i piedi e camminare con queste scarpe. Solo una persona che ha portato, magari quando era piccolo, le vacche a bere all'abbeveratoio può raccontarci. Quindi quelle persone che hanno fatto il tempo a vivere in quel mondo che era contadino prima del grosso cambiamento, e questi anziani descrivono in questo modo molto efficace. Loro dicono il cambiamento, questo cambiamento come si può dire? In questo modo, come lo dicono loro, cioè è quando delle stalle hanno fatto i garage. Questo cambiamento di cui stiamo parlando, quindi non lo colloco in un momento storico, io non sono uno storico, però mi piace dire quello che dicono loro. Quando le stalle hanno fatto i garage, quando delle soffitte hanno fatto mansarde, e poi ce n'era un'altra, quando della... non mi ricordo, era carina, vabbè. E ultimamente anche degli orti hanno fatto posteggi, anche dove c'erano le fontane, magari adesso sono dei parcheggi bellissimi. Per esempio, da noi invece dove li hanno tenuto le fontane, hanno fatto bene, e il parcheggio comunque c'è sempre modo di farlo da un'altra parte. Quindi mi perdo perché apro un sacco di parentesi e poi perdo il filo. Allora, tornando agli anziani, quindi raccontano del territorio, informazioni. Nelle loro testimonianze orali, nelle loro voci, ci sono informazioni che magari non andiamo a raccogliere e non abbiamo tanto tempo, ma se lo facciamo troviamo un pool di informazioni che noi persone della comunità a tanti livelli, l'amministrazione, il professionista, l'appassionato, eccetera, eccetera, possiamo elaborare, e questo in Teesino proviamo a farlo insieme, collettivamente, per produrre delle azioni poi sul territorio. Quindi c'è un aspetto sociale, perché noi andiamo a prendere l'anziano anche della casa di riposo, che è considerato un soggetto passivo. La signora Bruna che ha contribuito a un quarto di questo libro con i suoi racconti, è un soggetto considerato passivo per la comunità. Cosa può dare la signora Coruna a noi? Possiamo solo aiutarla noi, invece no. Queste persone facendo raccontare queste persone, diamo loro un ruolo fondamentale e raccogliamo informazioni di livello universitario. Faccio un esempio pratico. Io tutti gli esempi che faccio li ho imparati da loro, quindi per me è stato come andare a scuola. La buca delle patate è una tecnologia primitiva. La buca delle patate è quella buca che si faceva, dico le loro parole, nel campo o magari anche in una zona della casa, sottoterra si coibentava con delle assi e del... quando arrivo a 14 minuti, fatemi cenno perché sennò non ho il tempo. Si mettevano le patate dopo la raccolta e potevano arrivare fino alla successiva risemina senza avere i fari germogli, i buttisi. Questa tecnologia, uno dice, sì, vabbè, ma che cosa stai parlando? Eh no, analizziamola scientificamente. È una tecnologia che, per quanto riguarda l'efficienza, la resa, diciamo, energetica, è tuttora non superata, perché non consuma energia, quindi non c'è consumo di energia, e non consuma spazio. E qui i giapponesi stanno già venendo a studiare questa cosa. Chi è che ha preso, per esempio, faccio un esempio che di un gruppo che fa un tipo di agricoltura che personalmente non, diciamo, io mi sento distante un po' da questo tipo di agricoltura, però hanno usato questo principio per uno scopo. Quindi Melinda, per risparmiare, perché i costi dell'energia sono elevati, hanno usato i tunnel. Questo, l'utilizzo del fresco naturale, è un principio che ritroviamo nei secoli, così come tutta l'architettura, correggimi se sbaglio, l'architettura dei seminterrati, eccetera. C'è tutta una letteratura, degli esempi. Sono tecnologie che sono interessantissime in un momento in cui ci parliamo di sviluppo sostenibile, pim pum pam, sembra che dobbiamo trovare chissà quale cosa, in realtà la società sostenibile c'era già prima, non vuol dire questo che dobbiamo tornare lì a fare le stesse cose che si facevano allora, ma che quei principi che guidavano l'organizzazione di quella società, e quei principi li dobbiamo conoscere, perché siamo andati avanti per tanto tempo nell'abbondanza di denari e di energie, eccetera, a fare delle cose che erano uno spreco. Faccio un altro esempio: la candela. Uno andava in giro per la casa con una lampada o con la candela, e non teneva una lampada accesa in ogni stanza. Quindi il punto luce si muoveva con la persona dove serviva. Il punto luce che si muove, adesso uno si può mettere cose, il punto luce che si muove è una cosa che si utilizza adesso per risparmiare l'elettricità. Ma per esempio adesso a Castelteggini sto parlando dell'illuminazione notturna di alcune zone del paese. Però effettivamente se in quel punto lì nessuno ci sta passando, perché deve essere accesa la luce? Mentre invece uno passa a piedi, fa la passeggiata, si accende la luce e poi si spegne quando... Questo è un principio antico. Ecco che, siccome quella società, come sappiamo dai nostri nonni, non si butta via niente, non si spreca niente, non si consuma energia inutilmente, per esempio tutti i gesti degli artigiani, io ho fatto 2 settimane il muratore, ho imparato a tirar su la terra col badile, tu lo devi fare in un certo modo, non è che sprechi energia. E allora la persona anziana che mi insegnava mi ha spiegato come non far fatica. Quindi l'energia non si sprecava mai, le cose non si buttavano via mai. Quindi, ripeto, non dobbiamo tornare a vivere come un tempo, ma quei principi lì dobbiamo riconsiderarli. vengo a una cosa interessante che ho scoperto ultimamente, beh, ho imparato, ecco, da questi anziani, quindi che cos'è l'economia, oggi si dice economia circolare, io contesto questo termine circolare, io nel libro ho detto ciclica, però ho pensato sta cosa qui analizzando sulla carta quello che gli anziani mi raccontavano. Perché dico ciclica? Perché circolare, secondo me, è una cosa che inventate gli economisti che guardano la carta. L'economista guarda la carta, allora è una roba circolare, ma da dov'è che viene l'idea di un qualcosa, cioè perché diciamo riciclare i rifiuti e non ricircolare? Perché quelli sono dei cicli vitali, biologici, eccetera, quindi sono i cicli che vanno ripristinati, non i circoli. Può essere il circolo pensionati, sì. Vabbè, al di là delle battute, c'è una signora sarda che, prendendo il principio non si butta via niente e rivisitandolo in senso moderno, ecco qui un esempio di quello che sto sostenendo, ha creato in Sardegna, in questo momento di crisi economica, 600 posti di lavoro. Com'è che ha fatto? È andata ad analizzare tutti gli scarti delle derrate del comparto agroalimentare. Per esempio ha preso il pelo corto delle pecore, che non può essere utilizzato per fare vestiti eccetera, però ne ha fatto il cappotto per le case, quindi si è buttato sulla bioedilizia. Un altro esempio, ho preso l'alga posidonia che i comuni sulla costa dovevano togliere perché era infestante, insomma, e dovevano spendere un sacco di soldi per smaltirla, lei l'ha presa e ne ha fatto un materiale a costo zero, facendo risparmiare i comuni, quindi facendo diventare quello che noi chiamiamo rifiuto, in realtà è una risorsa, basta studiare le proprietà chimico-fisiche, eccetera, eccetera. E quindi ha creato tutta un'economia basata sugli scarti, che sono risorse, sono materie prime a costo zero. Torno ai nostri anziani e poi finisco, vado a concludere. Allora, cerco di essere sintetico. Questi anziani, insomma, ci possono dare informazioni che, analizzate dalle persone della comunità, che possono essere, insomma, in un paese c'è il forestale, l'agronomo, la maestra, il sindaco, insomma, ogni comunità ha le sue persone che sanno ragionare, si possono mettere insieme e analizzare queste informazioni e creare progetti. In più, se facciamo un'analisi molto approfondita di queste informazioni, possiamo addirittura fare come ha fatto la signora Sarda, cioè creare perfino posti di lavoro e economie cicliche complesse. Faccio solo un esempino piccolo locale del Tesino e poi ho finito. Noi non abbiamo fatto come la signora Sarda, ma sapendo dai nostri anziani delle vecchie varietà di piante da frutto, in Tesino, insomma, l'agricoltura si è fermata tanti anni fa, quegli alberi si sono tutti salvati, mentre qui in pianura sono stati tagliati per essere rimpiazzati dall'agricoltura che invece qui funzionava. Insomma, abbiamo un patrimonio di alberi di vecchie varietà interessantissimo. Allora, siccome c'è un frutteto molto bello proprio di fianco alla casa di riposo, sta partendo un progetto dove noi andiamo a chiedere le informazioni agli anziani, che quindi le raccontano a noi giovani. E già c'è, ecco la ciclicità, è una cosa ciclica, non è circolare. E poi facciamo il corso di potatura in nesti per imparare a salvare queste piante e le rimpiantiamo, le piantine, quindi è una cosa ciclica, non è circolare. Le rimpiantiamo e un domani queste cose potrebbero generare un'economia locale interessante. Quindi finisco dicendo che dobbiamo riattivare soprattutto i cicli tra le persone, del racconto, dell'ascolto, il ciclo umano, della trasmissione dei saperi, saperi che non sono solo a parole, ma sono manuali, tipo te. Posso fare no? Prima guarda, lo faccio io, guarda, adesso lo fai tu, pa, perché il sapere si trasmette col corpo. Mi sto dilungando troppo, è chiaro quello che ho raccontato, poi se vediamo il film tutto quanto e poi magari se ci sono delle domande tutti quanti interverremo di nuovo. Boh, grazie. Interessante della serata, voglio parlarvi di una cosa molto interessante che si sta svolgendo in questo periodo. Io mi chiamo Elisabetta, ho un'azienda agricola a Mezzomonte di Fogliaria, insomma sono 25 anni che ci occupiamo di muri a secco dal nostro punto di vista, gli agricoltori di montagna e di tutto quello che è scarto e che può diventare risorsa, per cui sono tutti discorsi e competenze interessantissime che state portando qua. Allora, dal 2009 è partito in Italia un gruppo che si chiama Campagna Popolare per l'Agricoltura Contadina, è costituito da 18 associazioni a livello italiane, tutte associazioni di base della società civile, per cui non legate a partiti, a sindacati, contadini. E pian piano dal 2009, poi nel 2013, poi nel 2015 è stato fatto un percorso per portare in Parlamento una legge che riconosca la figura del contadino. Chi è il contadino? Il contadino è quello che tira su anche i muri a secco, perché non guarda la produttività immediata, guarda la bellezza del suo paesaggio, guarda cioè tutto quello che sta intorno, dal lato contemplativo al lato economico, per mangiare, per scaldarsi, però senza entrare in un'ottica di mercato che è quella che ha distrutto il paesaggio, che sta distruggendo, per fortuna in alcuni posti è rimasto preservato, ci hanno abbandonati, siamo marginali, per fortuna. E proprio in questi giorni sto leggendo un libro di Pallante che parla proprio di questo, parla proprio di come è stato distrutto il paesaggio, di quello che l'uomo deve recuperare di autoproduzioni, perché recuperiamo una dignità se autoproduciamo delle cose, anche poche, anche però non creiamo solo per l'economia di mercato, perché questo toglie qualunque umanità e qualunque dignità alle persone, questa hanno voluto toglierci fino adesso, provarci, ma penso che ci sono tanti semi in giro. Va bene, il percorso di questa legge adesso è arrivato a un bel punto, nel senso che a gennaio 2015 abbiamo deposto in Parlamento tramite un deputato che si chiama Adriano Zaccagnini, che veniva dalla nostra associazione, dal WUF, che è l'Associazione di Volontari delle Aziende Biologiche, è nella Commissione Agricoltura della Camera, abbiamo depositato questo testo di legge che è per riconoscere la figura giuridica del contadino. Nel frattempo sono uscite altre tre proposte di legge, una Cenni, una Parentela e una ultima di Sciuglia, dell'Espope dell'Alto Adige, che parlano di argomenti similari, le hanno messe insieme in una legge quadro sull'agricoltura contadina che adesso da gennaio sarà al vaglio della Camera. Stiamo cercando il più possibile adesioni, persone anche disponibili per delle audizioni alla Commissione Agricoltura, perché c'è il rischio che magari i portatori di interessi economici, i sindacati e queste le categorie, quelli che dicono no, noi vogliamo questa figura perché così ci danno i soldi, noi non vogliamo perché ci danno i soldi. Io ho detto facciamo una legge in cui non chiediamo soldi, così non arrivano come mosche al miele e possiamo far passare le cose fondamentali. Vi dico quali sono, non mi dilungo perché poi guardiamo il filmato, quali sono i 3-4 punti fondamentali di questa legge. Allora, il primo è il riconoscimento giuridico della figura del contadino, che non è per forza un imprenditore agricolo, è proprio diversa la figura, perché il contadino è quello che prima di tutto gestisce a livello di struttura piccola o medio piccola, che poi è relativa a seconda delle zone d'Italia dove siamo, per cui non è catalogabile in ettari o in campi di animale. Però è quello che diversifica, cioè non fa monocultura, per cui uno che fa monocultura non è un contadino, è un industriale dell'agricoltura, è quello che punta alla preservazione della biodiversità, come razze animali, come razze di sementi, è quello che fa produzione destinata prevalentemente all'autoconsumo, cioè lui coltiva per la sua, lui o lei coltiva per la sua famiglia, per la sua cooperativa, per la sua associazione, possono essere vari tipi di villaggi, di ecovillaggi, di cose che si mettono insieme, e poi vende sul mercato locale o di filiera corta quello che è il più di eccedenza. È ovvio che se uno le sue cose le mangia non va a avvelenare la gente. Chiaro, ci vuole qualche norma di igiene, ci vuole qualche controllo, è normale, però non è un'industria che ti avvelena la gente, che loro non mangiano quelle schifezze che producono. E poi l'utilizzo di materie prime di provenienza aziendale, cioè se trasforma, e delle deroghe sulle trasformazioni, delle deroghe sulla vendita ai mercati, lo fa al 90% con prodotti suoi, cioè non è un commerciante che compra, trasforma e rivende, è diverso. In questa legge c'è un capitolo molto interessante che ha a che fare con questa serata sul recupero delle terre incolte abbandonate, che verrebbero assegnate tramite dei bandi comunali, perché queste figure di contadini è stato chiesto da noi che vengano istituiti degli albi comunali dove uno si iscrive al registro dell'agricoltura contadina, gli viene dato un numero, questo numero lo mette sulle etichette, quando sulle etichette ha scritto prodotto da tale Italia, gli ingredienti sono questi, consumare entro, basta, cioè cosa serve in più? Vieni a casa mia, se ti viene mal di pancia me lo dici, ti denuncio neanche, ma sappiamo, ci possiamo incontrare, capito? Non è una cosa distante. Semplificazioni sul piccolo agriturismo fino a 10 coperti e 5 posti letto, cioè se io ho due camere in più in casa e ho una piccola azienda agricola posso dare da dormire a 3-4 persone senza essere un clandestino, posso dargli da mangiare senza farli nascosto, cioè adesso la maggior parte dei contadini che non hanno un laboratorio fanno carte false per mettere sull'etichetta quel laboratorio, quell'altro per pagare, cioè ci stanno facendo diventare pazzi. Adesso non vi dico tutte le norme contenute nella legge, però il discorso sul recupero dei terreni abbandonati è un discorso molto molto interessante, perché permetterebbe lo stesso Sciuglia, che spero di incontrarlo settimana prossima, perché è una legge uscita da pochi, una proposta da 2 mesi di questo Sciuglia, per cui lui non era a conoscenza del percorso fatto con gli altri 3 parlamentari sulle leggi, lui propone proprio un censimento, che ha fatto in altre regioni che però non ha dato i risultati in Toscana sperati, censimento delle terre abbandonate sia private sia pubbliche, cioè sia terreni demaniali come ce ne sono tantissimi in centro Italia, fra l'altro una notizia, non so se conoscete tutti i Mondeggi, qualcuno lo conosce, avete sentito parlare, ecco in questi giorni Mondeggi ha chiuso. Mondeggi era un esempio in Toscana, vicino a Firenze, lo dico perché è una cosa interessantissima, in cui è stata fatta una sorta di occupazione, ma non si chiama occupazione, si chiama custodia del bene pubblico, cioè 10 casolari, 500 ettari di terreno completamente abbandonati dal comune, dalla regione per una speculazione, un gruppo di persone ha detto questo è un patrimonio comune, noi ci reggiamo a custodi del bene comune. Hanno rimesso il seminativo, hanno sistemato delle case, hanno potato degli olivi, tutta la popolazione era d'accordo, cioè lasciare andare le cose in rovina per una speculazione è veramente... E allora penso che insomma la società civile si possa riappropriare anche di questi terreni abbandonati, di questi terrazzamenti, se vengono fatte queste facilitazioni, che speriamo passino, se no andremo per altre vie, andremo per una legge di iniziativa popolare, qualcosa faremo. Se passano questi, il contadino, la persona, anche solo per autoconsumo, anche solo piccola scala, che vuole recuperare un trattamento, che vuole fare, avrà più possibilità, se non altro, che glielo lasciano fare. Era solo una cena per dire di questa cosa interessante. Cioè. Beh, quanti stimoli, complimenti a tutti quelli che sono intervenuti. Mi auguro che si trattenga qualcuno dopo la proiezione, magari se ci sono domande, non solo riguardo al film, ma anche alle persone che hanno parlato fino adesso. Sono molto contento che abbia chiuso Elisabetta, perché in qualche modo è una voce... che si pone un po' dall'altra parte, cioè agli antipodi in qualche modo, dai contadini che vedremo adesso, perché allora questo documentario che si chiama Contadini di montagna, che forse potevo intitolare Contadini di montagna punto di domanda, l'ho fatto su richiesta, diciamo, di un'associazione che si chiama Imperial Wines, di ragazzi giovani e intraprendenti, che seguono un po' tutto il discorso di ITLAS, dell'Alleanza Internazionale per il Paesaggio Terrazzato, eccetera, e mi hanno chiesto un po' di raccontare in qualche modo il paesaggio terrazzato della Val di Cembra, nella parte del comune di Giovo, però senza, una cosa che a me piace molto, senza idealizzarlo, cioè proprio mi hanno detto: scegli tu il modo in cui raccogliere. Siamo partiti dalla raccolta di alcune testimonianze e poi abbiamo deciso di fare un documentario. E io sono stato molto contento perché in lavori precedenti che ho fatto ho raccontato forse di più figure, non dico come Elisabetta, ma che hanno un po', che fanno un tipo di mestiere, un modo di essere contadino che, diciamo, si avvicina un po' quasi all'utopia oggi nel contesto in cui siamo, mentre per esperienza personale il contadino, ne conosco io e sono tanti, sono anche proprio quelli che lavorano per l'economia di mercato, che conferiscono, nel caso della viticoltura, alle grandi cantine, cantine Mezza Corona, ai grandi consorzi, eccetera, e sono contadini. Quindi mi interessava un po' andare a vedere, diciamo, quella che è una bellissima fotografia, quella della Valle di Cembra, vista dalla parte, diciamo, di Albiano, dove ci sono le cave, no? Che viene usata da tutte queste grandi cantine, dai consorzi, anche per la pubblicità. Andare a vedere quelle che sono per me le formiche, cioè le persone che mantengono questo splendido paesaggio terrazzato monoculturale in quel caso, che però, come dire, sulla quale economia si regge quasi un'intera valle e gran parte della nostra provincia, quindi il discorso di Melinda, della Val di Non, cioè mi interessava un po' metterci il becco. Però cos'è che volevo far emergere? Volevo far emergere anche la difficoltà, la specificità del lavorare su quelle pendenze rispetto a lavorare in pianura, quindi nella piana rotaliana, ad esempio, no? Cosa che loro sottolineano spesso nei loro racconti, ma anche le contraddizioni che anche in questo tipo di agricoltura, in questo tipo di contadini, nascono proprio tra le generazioni, no? Cioè tra l'anziano che magari ha un modo di vedere le cose e il giovane, il più giovane, c'è cioè una ragazza che si chiama Noemi, insomma, che vedrete molto in gamba, che spesso contraddice quello che gli dice il padre, che magari andrebbe avanti solo seguendo quella che è la tradizione. Cioè mi interessava un po' raccontare la complessità di questo mondo, di questo territorio, facendo vedere quelli che sono i pregi e forse anche i difetti, e i protagonisti sono in assoluto i contadini, che vedrete proprio in primo piano, che raccontano se stessi e quel paesaggio su cui non solo lavorano ma praticamente vivono 365 giorni all'anno. Grazie. Beh, grazie per la pazienza. Io preferirei lasciare la parola a voi se avete qualche curiosità anche rispetto a quello che è stato detto prima dalle altre persone che non vedo più, che sono intervenute. Qua. Ah, ci siete. Perché in realtà il documentario affronta tanti temi e quindi si può parlare sì di muri a secco, di cemento, non cemento, di agricoltura biologica, non biologica. Diciamo che a me interessava anche un po' osservare, senza prendere una posizione netta, ma io credo che anche nel modo di esprimersi di queste persone, infatti ho lasciato tutto il tempo che a disposizione a loro, no, di finire il discorso, ho lasciato queste lunghe sequenze, perché c'è proprio un modo, secondo me, di esprimere anche i concetti che mi piaceva, come dire, documentare, no? Anche differente delle due coppie, la prima più, se vogliamo, tipicamente contadina, pacata, un po' titubante, invece Noemi e il padre sono sempre lì che battibeccano, anche se si vogliono un bene dell'animo perché lavorano sempre assieme, ma vi assicuro che su ogni questione avevano qualcosa da ridire. Poi ci sono migliaia di piccoli dettagli per cui si invertono i ruoli, no? Cioè, per assurdo, alle volte è più conservatore l'anziano, perché dice no, il biologico, in fondo possiamo usare un po' di diserbante, ma ci sono altre parti che non ho messo nel documentario, ma le ho utilizzate anche per un archivio che c'è online che si chiama talkingstones.it, che volevo un po' implementare con, soprattutto sulla parte riguardante i muri a secco, le tecniche, no? Perché qua il documentario affronta tante tematiche che vanno al di là, diciamo, del terrazzamento però c'erano per esempio dei momenti in cui Noemi voleva sostituire tutti i pali di legno, i vecchi pali di sostegno delle viti, e il padre diceva no, sono più belli questi, lasciali, sono durati 100 anni e se li cambiamo li rimettiamo di legno, no? Quindi per assurdo era più attento anche all'estetica del paesaggio l'anziano, perché è affezionato a quel legno e quindi a un'estetica anche del paesaggio. E invece Noemi dice no, è meglio prendere quelli di cemento, quelli di metallo, no? Quindi alle volte si invertono i ruoli. C'è anche una parte dove loro due, Noemi e Mario, mi raccontano di come hanno costruito un muro a secco, e bellissimo, l'hanno fatto 5-6 anni fa in tre con il marito di Noemi, e loro proprio sottolineano l'importanza, cioè loro vorrebbero solo i muri a secco, no? E quindi Noemi dice, ecco, se ci fosse un corso io lo potrei frequentare, perché con questi due qua, con mio papà e con mio marito, non riesco a capire niente, perché continuiamo a litigare, eccetera, eccetera. Però è anche vero, e questo lo devo sottolineare, che loro hanno i terrazzamenti, se vogliamo, più comodi. Gli altri, avete visto, hanno queste muraglie imponenti, sono in due. Michele non ha neanche figli, quindi voglio dire, il futuro è un po' un punto di domanda. Nessuno va a vedere, a controllare se il muro è a secco, non è a secco, se è bello, non è bello. Loro si sentono praticamente abbandonati, ed è ovvio che ogni tanto qualche inserto di cemento lo fanno, anche perché nell'immagine che avete visto stavano costruendo una rampa per accedere a dei terrazzamenti dove non si poteva andare con il trattore, per cui li hanno rinforzati di più, ma anche loro utilizzano, cioè, la tecnica della pietra a secco, insomma, per il ripristino. Quindi voglio dire, ci sarebbero tanti argomenti. Ecco, lascio la parola a voi se avete qualche curiosità, o agli altri che sono intervenuti prima. Ecco. Elisabetta sicuramente qualcosa da dire ce l'avrebbe. Prima ho sbagliato a dire che la tua è un'agricoltura di tipo utopico, mi sono pentito, perché lo fai, ce ne sono tanti che lo fanno ed è sempre più diffusa. Però, diciamo, rispetto a questi mondi qua è un po' una nicchia, ecco, quello volevo dire. Ma benvenga, cioè. È bellissimo il filmato, nel senso che rendi proprio l'idea, cioè questi sono contadini proprio, la loro attitudine, la loro mentalità è proprio di contadini, li vedi che sono attaccati alla terra, sono attaccati alle bestie. Dopo, l'economia di mercato non sempre gli lascia fare quello che vorrebbero. Il fatto che ha dovuto vendere le bestie, anche quello più giovane, cioè, le avrebbe tenute, che cosa ti rendono le bestie? Cioè, quasi più spesa che guadagno, per cui lo fai per passione. Se però ci fossero delle norme che ti permettono di farlo, perché per il tuo autoconsumo in modo più semplice, tanti in più lo farebbero. E il padre diceva, ci vorrebbe la stalla grande. Non ce la farai mai qua da noi con la stalla grande, essere economico. Ce la fa quasi neanche in pianura. Per cui, cioè, dovrebbe essere salvaguardato, ma questi lo capivano. Cioè, tutti e quattro lo capivano, non è per niente che sono lì. Dopo, chiaro, al giorno d'oggi il reddito ce l'hai dall'uva, perché l'uva viene pagata, e non ce l'hai dalle bestie, non ce l'hai dall'orto, non ce l'hai da altre cose. Ma il mercato che chiama questo? Cioè, non è la mentalità delle persone, la mentalità delle persone c'è, legata alla terra. Hai reso molto bene, molto bene. Bene, grazie. No, è sicuramente un tema che è quello con cui ha iniziato Luca, e che anche io ritengo sia importante, è il fatto che sta alla base di tutto, del documentario, del lavoro che fa Hitler, del convegno dell'anno prossimo. è che comunque questi paesaggi terrazzati che sono ovunque, non solo in Trentino, in Italia, sulle Alpi, ma in Marocco, in Perù, in Asia, eccetera, sono un valore e, come dire, che viene un po' riscoperto perché è sempre dato, secondo me, per scontato. Io che lavoro anche un po' nel campo delle tradizioni popolari, la cosa che mi ha stupito quando un po' ho iniziato con Mauro e gli altri a occuparmene è che anche nel campo delle tradizioni popolari, nei musei etnografici, eccetera, se notate non si parla quasi mai di muri a secco, no? Cioè si parla delle tecniche di agricoltura, di viticoltura, della malga, ma i muri, cioè, come se ci fossero lì da sempre e ci saranno lì per sempre, no? Ecco, questo lavoro che fa ITL, tutto questo piccolo movimento, che però nell'arco di pochi anni, perché io me ne occupo da 5, 6, 7 anni, mi sto accorgendo che sta crescendo comunque una sensibilità a vista d'occhio, perché anche questi corsi che sono stati organizzati nei vari comuni, a Villa, a Villa Lagarina, Val di Sole, in Val di Cembra, hanno avuto un certo riscontro. Per il convegno dell'anno prossimo ci sono piccole associazioni, movimenti un po' in tutta Italia che adesso stanno parlando di questo e stanno in qualche modo aiutando anche, si spera, anche i contadini, no? Come dire, a mettere anche un po' al centro dell'attenzione, fargli capire che non sono forse soli, ma che anche gli altri capiscono che il loro pezzo di terra è un valore, no? Perché se vengono completamente abbandonati a se stessi, e anzi se l'economia e la società spingono in un'altra direzione, è ovvio che qualcuno getta la spugna, no? E quello che a me ha stupito nella Valle di Cembra, che è completamente differente da Terragnolo, da altri contesti dove c'è l'abbandono, la stagna, è che comunque hai un po' la sensazione che sì, tutto questo paesaggio, ma anche qua da noi in Valle Galina, cioè è bello coltivato, terrazzato, cioè è un patrimonio. Insomma, io quando torno da nord o da sud con l'autostrada, arrivo a Avio o da Salorno, giù, vedo questi terrazzamenti, dico cavolo, che spettacolo. Ma non è, secondo me, non è per nulla scontato, cioè da un momento all'altro li possono abbandonare, cioè queste coppie qua, se non c'è quella passione, quella determinazione lì, cioè ci mette un attimo a gettare la spugna, oppure se non ci sono giovani che incalzano, che si appassionano, è un lavoro che si tende a non fare più, no? Cioè, ecco, quindi io non lo darei per scontato e ben venga tutta questa sensibilità, insomma, che sta crescendo. Le persone che lavorano a fare sui muri, a secco, in carità, però dopo tieni il contrattore. Sì, adesso si è visto qua anche, insomma, il cemento, va bene, insomma, quella tecnica lì, perlomeno al paramento in pietra davanti, insomma, non è così scandaloso. Poi lo capisco, io su certe sezioni di muro, su certi passaggi, insomma, i trattori possono anche... Le boccia? Sì, allora diciamo, come sono dimensionati certi muri possono essere un problema, però abbiamo visto noi nei nostri incontri, nei nostri corsi, nelle nostre cose, che sono stati fatti dei calcoli statici, specifici, diciamo, anche dal cosiddetto carico accidentale, e si è visto che, insomma, il trattore può tenere benissimo su un muro secco anche montandoci sopra, basta che ci sia sopra delle pietre di una certa misura, insomma, fatte in una certa maniera. È chiaro che certi muri, insomma, non erano previsti per, appunto, i cosiddetti carichi accidentali in certi tipi di trattore. Bisogna considerare anche che certi tipi di trattori, in certi luoghi terrazzati, non possono neanche essere pensati, insomma. Ci vogliono dei mezzi meccanici anche ad hoc. Poi, appunto, teniamo presente che spesso il nostro patrimonio di paesaggi terrazzati è stato costruito, appunto, anche senza calcoli statici. Cioè, per cui io vedo dove ci sono dei crolli, spesso è anche sottodimensionato, perché i sassi erano quelli, magari ne facevano una fila invece che due, può essere stato anche costruito, tra virgolette, che metterà quei piccoli sotto e i grandi sotto. Sì, passati questo termine, non si erano magari costruiti a regola, no? Anche perché spesso, appunto, si è visto qua in piccolo, erano dei clan familiari che partivano, insomma, tutti in squadra, magari l'inverno, per costruire dei tratti, bonificare, roncare, che non so neanche venuto fuori quel termine lì. E per cui, insomma, non possiamo pretendere che ci siano delle strutture super efficienti, anche se finora lo sono stati. Però i crolli fanno parte, voglio dire, in certi contesti, qua abbiamo visto il trattorino, c'è mentre c'è l'impastatrice, questo che i sassi presi da una parte e messi dall'altra, vabbè, però con un muro a secco tu vai con un secchiello di attrezzi e costruisci un muro, non hai bisogno di betoniere, di ferri, di plinti, non lasci residui, cioè non ci sono immondizie. Perché sono immondizie anche se di cemento, quello che ha detto la plastica, cioè è un concetto sostenibile, diciamo, dal punto di vista dell'immagine paesaggistica, ma anche sostenibile dal punto di vista dell'impatto, insomma, così. Dopo io capisco, quei lavori lì non si possono dire no, puristi, no, al cemento no. Io capisco che la situazione, io voglio avere subito la sicurezza, siamo qua in due, insomma, però perlomeno metto una pietra col cemento, ma non sono quei getti assurdi, insomma, che si vedeva una volta, si vedeva nulla del cemento, stava male, sì, metteva lì, quanto lo so, tipo tirare la stegheria, insomma, no? Questo è già una via di mezzo, insomma, tra una cosa e l'altra, insomma. Dopo uno, io per esempio, c'è quella scala lì che mi sembra che è dei padre figlio, dove c'era il cane, è un capolavoro. Cioè, in un contesto così dice, appunto, c'è il bollino di qualità e dal restauro si fa come si deve. Cioè, ci sono delle murature storiche che hanno secoli, ecco lì, devo stare attento a riprendere la tipologia come si deve in certi contesti. Dopo, appunto, non si può neanche essere fino in fondo, insomma, io preferisco, appunto, lavorare così, però è chiaro che se ho un muro che è crollato, è perché era sottodimensionato, se lo ricostruisco con il materiale che ho lì è poco, devo portare dell'altro per dimensionare di più, cioè ecco. Una lepa sul muro, però 100 metri, una lepa sul muro 100 metri. Ah sì, chiaro, anche la quantità, appunto, anche perché i campi sono già stati spietrati quella volta che ho fatto il muro, se io devo rinforzare un muro devo portare il minimo dell'altro materiale, insomma. Ma c'è qualcun altro che vuole intervenire? Ah no, io volevo anche provare a fare un piccolo valore aggiunto. Mi è piaciuto molto il filmato e i contadini di Brugnara alla fine, durante il loro racconto, hanno detto, il padre ha detto, se potessero parlare, riferito ai muri, e in effetti le pietre parlano, questa è una cosa assolutamente che non ci dobbiamo dimenticare ed è forse il valore aggiunto. Io sono un naturalista e osservo il paesaggio dal punto di vista naturalistico. Quindi la pietra di mura secco ci parla chiaramente di storia, di cultura, di fatica contadina, ed è importante che questo linguaggio venga interpretato dagli appassionati, dai tecnici, dai contadini, e si riesca, come dire, a tradurre quello che le pietre ci vogliono raccontare, perché hanno una storia importantissima, una storia che parte dalla storia geologica, la Vicembra, la Lagarina, Terra del Nolo, ci raccontano proprio di dove le pietre sono arrivate e come sono arrivate. Ci parla di una storia legata alla fauna, insomma, all'interno delle nicchie, un muro secco è un luogo umido oppure secco. Ci parla degli aspetti vegetazionali e anche degli aspetti legati alla botanica. E quindi sono un luogo assolutamente importantissimo da preservare e da valorizzare. Oltre ad essere un godimento per il paesaggio. Nel senso, il valore estetico è assolutamente intrinseco e osservare un paesaggio terrazzato ci piace frequentarlo e ci fa stare bene quello che la natura insomma ci insegna. Vorrei aggiungere solo una particolarità. Quando abbiamo fatto, mi sembra che è stato quel piccolo convegno su il dicembre, appunto, c'era non so se te lo ricordi, col professore Fiorentino, mi sembra, che aveva presentato quello studio che abbiamo fatto, lo stesso vino, tre immagini diverse, cultura intensiva, insomma, in sostanza, sempre lo stesso vino, il risultato più buono quello che aveva l'immagine dei terrazzamenti. di un paesaggio terrazzato, la percezione del bello, dicevi, di un luogo pulito, di un luogo non inquinato. Era lo stesso vino, però la percezione era che quello era il migliore, per dire come ci rapportiamo anche all'ambiente. Ma no, cioè, si potrebbe andare avanti, se vai, guarda, non chiede a lui. Approfitto della presenza, ma poi anche sul discorso della, diciamo, delle acque, nel senso che chiedo, perché non sono un esperto, però delle volte usare tanto cemento può portare al fatto che le acque non vengono gestite proprio nel modo giusto e allora ci sono frane o cose così. Allora, c'è scritto di cosa volevo parlare? Muretti a secco, ecco. È il discorso idrogeologico, così detto, no? Vabbè, allora, il muro secco garantisce un drenaggio del 100%. Cade un quintale d'acqua, esce un quintale d'acqua, senza causare danni o crolli. Quello di cemento non posso dire la stessa cosa. Pertanto che mettono tubi di drenaggio dove vuoi, se li guardate bene, spesso sono tappati, non funzionano. E perché non andrebbero messi sulla fondazione, sui tanti luoghi, insomma, funzionerebbe meglio se fossero costruiti proprio, con una casseforma, qualcosa, con le pitte, allora resterebbero più liberi. Ma io ho visto anche grossi problemi legati ai muri in cemento, in zone umide. Io ho seguito un intervento in Val d'Algone, dove c'è il parco, come si chiama? D'Algone. Lì c'è una strada forestale, muro fatto su 3 anni prima, era tutto crollato, ma si era tirato dietro non un piccolo crollo, tutta l'armatura completamente era divelta, proprio perché le acque non potevano drenare bene. Una cosa simile mi ha portato Damiano Zanotelli a vedere quella grande bonifica che hanno fatto, così le chiamano bonifiche, spesso e tirano giù i muri a secco proprio in Val di Cembra, questa strada comunale dove appunto il cemento era stato usato in maniera massiccia purtroppo per murature e spesso là nel porfido, è facile usarlo di così il porfido, no? Cioè invece che in piano, che come fosse un muro, faccio fare un rivestimento, no? Per cui era stato usato così, però cosa ha fatto? Che Ruscella non esce, e Ruscella sotto la fondazione, poi te la trovi per aria, insomma. Lì era tutta la strada, era di un metro, cioè interventi fatti nuovi in cemento. Spesso il sistema idrologico appunto viene compromesso. Difatti non a caso c'è una legge provinciale a riguardo, perché spesso ti dicono sì, per costruire un muro secco però ci vogliono, no, per costruire un muro ti vogliono domande, carte, progetti. Allora questa legge dice che per qualche decina di metri, no Luca, mi sembra, dice un'altezza non superiore ai 2 per un muro secco non serve presa idrogeologica, perché la garantisce la struttura stessa. Mentre tu vuoi fare un cemento, vuoi mi togliere, fai i pliti, mi fai anche la perizia perché mi dà altri. Cioè, il muro secco appunto rientra anche nella normativa in un ambito insomma di funzionamento per questa problematica. Cioè, credo che se a questo discorso della qualità per quanto riguarda il discorso idrogeologico si aggiunge anche un altro ragionamento, che è questo: un'agricoltura che produce humus contribuisce a rendere il sistema fatto sia dal muretto ma anche dalla terra stessa più capace di trattenere l'acqua, poi l'acqua drena in modo corretto grazie al muretto. un'agricoltura che invece non produce humus ha un effetto spugna, porta dei terreni che hanno un effetto spugna molto inferiore, e quindi abbiamo fenomeni di ruscellamento, erosione, eccetera, se uniti poi a soluzioni per il drenaggio appunto non corrette, ecco che si sommano queste due problematiche, abbiamo a mio avviso anche problemi come quelli che vediamo sui telegiornali, eccetera, che in zone dove appunto... Perché anche l'agricoltura deve produrre fertilità e humus, sono delle cose che non si dicono molto, ma che... Quindi bisogna chiedersi che agricoltura che si vuole. Allargando il discorso a livello di tutela del territorio, se adottassero un sistema, diciamo, di regimazione dei torrenti, ma anche delle colline, eccetera, il Pietrasecco, che poi noi parliamo, abbiamo visto lì una coppia, due o tre persone che lavorano con le pietre a mano, però un muro secco può essere fatto anche con le macchine, cioè la cosiddetta muro scogliera, che di solito siamo abituati a vedere buttate lì dei sassoni con un po' di terra, però fatta con un buon sistema. Anche la scogliera, ho seguito cantieri dove volevo che fosse fatto un muro a scogliera fatto bene, uno con lo scavatore, l'altro col martello, e lavori con le macchine come fosse un muro secco, solo su dimensioni mutevoli, per cui tu puoi tenere su colline franose, argini, eccetera. Guardate che tutte le frane che sono state, io l'ho viste, io sono andato anche giù nelle Cinque Terre, nella zona della Liguria, io ho visto dove sono venute giù le frane, erano quei muretti fatti, ne abbiamo anche noi in giro qua, quei 30-40 cm di muro, marci, fatti 30-40 anni fa, che tenevano su colline che ancora salto, sono quelli che hanno buttato giù tutto. Cioè se noi avessimo lì una massa, un muro a gravità, così un muro secco, un muro a gravità, una massa superiore alla spinta del terreno, basta, l'acqua drena e via, insomma, cioè funzionerà, però una politica, insomma, che noi l'abbiamo su un campo, su una scala ridotta, diciamo, fosse estesa a una scala più ampia, funzionerebbe anche cioè, in altri anni. Ma possiamo anche chiudere, io volevo fare un'ultima riflessione che così mi viene da fare, che riguarda il ruolo delle amministrazioni riguardo alla sensibilità nei confronti della Pietrasecco, perché credo che non si possa pretendere, almeno la mia esperienza mi dice questo, che la gran parte dei contadini abbiano una così forte coscienza del valore del muro a secco, dell'importanza del ripristino utilizzando la Pietrasecco. Spesso, io mi sono accorto facendo l'intervista, andando in giro, sono proprio i contadini anche in quelle zone lì. Io sto filmando un signore che mi sta costruendo proprio un muro secco che è crollato e lo sta rifacendo. Tutti indicano lui, anche la PT ha indicato lui perché è arrivata la troupe di Gheo. E poi passeggiando, è bravissimo, tra l'altro una bella parlantina, conosce tutti i termini, come si rompe una pietra, a seconda del punto in cui tu picchi con il martello, la pietra si rompe in 4, in 2, in 3, no? Sto cercando di documentare tutte queste cose qua. Poi mi porta a bere un goccio di grappa, passando, vedi il baito ricoperto di cemento, costruito da lui proprio davanti al mare, al mare sottoterraneo che avete visto, c'è una casetta che è un baito abusivissimo di cemento, eccetera. Dietro al baito, pieno di muro secco, a un certo punto mi fa, ma lì hai fatto le riprese che mi servono, perché ha una causa con un altro contadino, perché lui ha rifatto il muro e si è costruito una panchina di cemento, un pezzo di cemento davanti alla fontana che ha cementato. Questo per dire, ma questo lo faceva anche mio nonno, era contadino, ma faceva i mattoni di cemento e ha sventrato tutte le case, per fortuna abbiamo posto anche dei limiti. Questo per dire che le cioè, se non c'è qualcuno che ha una sensibilità dall'alto, che gli fa capire l'importanza, che gli mette dei freni, dei limiti, non su tutto, io sono il primo che li difende quando fanno quell'agricoltura di tipo eroico in certi contesti, l'utilizzo di un po' di cemento come elegante, vabbè, so che tu non sei d'accordo, però. Ma ancora oggi nel 2000, quello che a me stupisce è che oggi si va anche a Terragnolo, all'As, eccetera, che frequento spesso, ogni tanto compaiono delle pareti, ma in contesti pazzeschi, oppure il selciato sventrato e non cementato, ma asfaltato, in contesti dove non c'è altro, perché se andiamo forse a Madonna di Campiglio, sulla riviera romagnola, eccetera, mai Vallassa, Terragnolo, questi posti a mezzo monte dove c'è Elisabetta, se non tuteli quella roba lì che è il paesaggio, che è l'unica cosa che hai, veramente non hai capito niente, no? E ancora oggi mi stupisce il fatto che certi amministratori non capiscono questo. Per fortuna ce ne sono altri, adesso non ti voglio tirare in ballo, Romina, ma se tra le poche che conosco che ha aderito all'alleanza e che ha fatto tutto un lavoro a Villa La Galina, ecco, credo che sia anche importante che non solo dal basso i singoli contadini debbano rendersi conto di questo, la gente, ma che anche voi in qualche modo li aiutate o controlliate o li facciate capire, magari favorendo anche dal punto di vista burocratico i lavori che vogliono fare. Al solito ti passo il microfono. Buonasera a tutti. Sì, noi da molto tempo che stiamo lavorando come amministrazione, ci crediamo molto. Innanzitutto parliamo di cultura di paesaggio, ovviamente partendo proprio da quel presupposto. Il progetto che era partito, e racconto la fatica che è stata fatta, ormai sono passati 7-8 anni, è stato recuperato tutto il sentiero cosiddetto collinare, quindi quello di collegamento tra i castelli, un'opera che è costata comunque 4 milioni e mezzo di euro e che deve servire da volano per il recupero degli altri terrazzamenti nascosti, che adesso noi a Villa La Galina stiamo finendo il censimento di tutti i muri a secco, appunto, proprio per mettere in evidenza quello che era il paesaggio agricolo degli anni del fine 800, primi del 900. Io ho recuperato delle foto di fine 800 dove il bosco iniziava, penso, ce n'era pochissimo, nella zona di Cimana ce n'era un po', proprio dalle foto si vede, è impressionante, e tutti questi terrazzamenti che adesso sono completamente imboscati, e l'area secondo me più bella è proprio quella del rio Cavazzino, poi ci sono altre aree anche nella zona di Pomarolo, che va giù verso Nomi, e quindi invito chi non ha ancora percorso questa strada a farlo, perché veramente è un paesaggio, vi dico, meraviglioso. Ma sono diverse le questioni. Una, la cultura fatta in questi anni sulla cementificazione, e quindi la paura del contadino stesso a non utilizzare il cemento nel rifacimento e ristrutturazione dei muri. Quindi questa è una discussione continua con chi deve andare a recuperare anche appezzamenti che sono stati abbandonati nel tempo, no? E dove non c'è proprio il concetto. Quindi riportarlo con dei corsi fatti, perché la professionalità appunto e le abitudini sono passate, ma anche perché fare un muro secco comunque sia era una fatica, questo senza dubbio. Dopo c'è il rovescio della medaglia, cioè si vuole andare nei nostri terrazzamenti con trattori sempre più grandi, perché noi abbiamo strade interpoderali e tante volte troviamo i cartelli diretti perché passano questi trattori enormi, no? Più grandi della strada. Quindi c'è un lavoro veramente grande da fare, ma culturale prima di tutto. Dopo, l'altro aspetto è anche economico, perché ovviamente noi abbiamo una parcellizzazione del territorio molto pesante, dove anche una piccola azienda agricola deve comunque avere insomma la diversificazione delle culture, sì, ma anche un podere che possa una famiglia insomma viverci. Quindi sono tutta una serie di tasselli che devono essere messi insieme e con l'aiuto ovviamente di persone come per esempio Elisabetta che ci crede profondamente e riusciamo forse a contaminare sempre di più anche altre persone, prima di tutto al ritorno alla coltivazione e anche a tutte quelle persone che lo fanno come reddito integrativo. E noi comunque in Trentino, e va detto, legandolo al discorso proprio anche del mantenimento del paesaggio stesso dal punto di vista idrogeologico, col cambiamento del clima, questa è una cosa importantissima, il lavoro e la manutenzione del territorio è la cosa più importante che ogni amministrazione dovrebbe sostenere. Sì, comunque volevo anche aggiungere che questa strada che ha citato Romina, che va in Estradice, ha fatto scuola, diciamo, noi l'abbiamo presentata nei vari convegni ed è sicuro che in Italia è un po' un'unicità. Noi abbiamo fatto i muri a valle della strada, oltre che quello a monte, a valle abbiamo messo giù delle pietre belle, robuste, insomma, carrabili, tornando al discorso dei trattori, insomma. Di dimensionamento, ma un po' quel discorso che facevi di vedere andando in giro queste cementificazioni, un po' il discorso che Luca mi faceva ogni tanto sul destino dei centri storici, no? Vuoi dire due parole su quello? Sì, mi sembrava bello. Sì, quello dei centri storici può essere usato come esempio, no? Cioè quel processo che è avvenuto dagli anni 70 in poi riguardo ai nostri centri storici. Cioè se noi oggi abbiamo i centri storici così come li vediamo è perché a un certo punto si è riconosciuto nei centri storici un valore particolare, un valore che non derivava dalla qualità del singolo edificio, ma derivava dalla struttura complessiva del centro storico, cioè quello che noi abbiamo tutelato è stato anche il singolo edificio dove c'era un'emergenza architettonica di una certa qualità. Ma ciò che è stato preservato è stata la continuità del centro storico, l'aggregazione degli edifici, gli spazi aperti attorno agli edifici, quello che oggi riconosciamo come valore, anche come valore identitario dei centri storici. Chiaramente questo all'inizio ha comportato notevoli difficoltà, perché questo tipo di vincolo è stato visto appunto unicamente come vincolo senza capire e qual era poi la visione complessiva. Credo che oggi nessuno sia più contrario a quel tipo di interventi sul centro storico. Ormai la sensibilità è diffusa e non credo che ci sia più nessuno che possa dire demoliamo i centri storici e sostituiamo i centri storici con altri edifici. La stessa cosa dovrebbe avvenire probabilmente anche per il paesaggio terrazzato. Questo processo viene definito insomma dagli esperti riconoscimento di valore, cioè quando collettivamente, quando anche culturalmente noi riconosciamo il valore ad un paesaggio, ad un elemento, come avevo detto prima, dei centri storici, cambia anche il nostro sguardo, il nostro modo di vederlo. E per fare un esempio estremo potremmo utilizzare l'esempio dell'opera d'arte. Cioè noi abbiamo una normativa, ma questa normativa che arriva, che è italiana, che arriva addirittura dall'Ottocento, che adesso è una norma tuttora attuale, che ci impedisce di demolire un'opera d'arte, anche se nostra. Se noi in casa abbiamo un'opera di Raffaello o anche più contemporanee, pensiamo a un Gottuso o anche opere di artisti riconosciuti, anche se quell'opera è nostra, è un reato demolirla, è un reato distruggerla. Tutt'al più noi possiamo donarla a qualcun altro, possiamo chiedere un aiuto addirittura nel suo mantenimento, perché ci sono delle leggi che ti aiutano a preservare il bene, perché è un bene riconosciuto di valore ed è una perdita collettiva perdere quel valore. Quindi se noi riconosciamo un valore al paesaggio terrazzato, allora cambia il nostro sguardo, cambia anche il nostro approccio. E allora comincia a essere un delitto anche distruggerlo. Quello che può portare alla distruzione in questo momento il passaggio terrazzato è l'abbandono. Noi sappiamo che gran parte, non nella zona della destra, ma per esempio nella zona della Vallassa o nella zona di Terragnola, l'abbandono è estremamente diffuso. Adesso c'è una novità legislativa, secondo me molto importante, introdotta da poco, è in vigore da agosto di quest'anno, della nuova legge urbanistica che istituisce per la prima volta in Trentino, che in Italia se ne sta parlando da molto tempo, che si chiama la banca della terra. Cioè dà la possibilità ai proprietari di questi terreni comunque di metterli a disposizione, senza perdere la proprietà, di metterli comunque a disposizione proprio per quel lavoro che diceva prima anche sotto, per cercare eventualmente qualcuno che ha l'intenzione di utilizzarli, di coltivarli, di farne qualche cosa. E il farne qualche cosa è secondo me molto importante da capire, perché non tutto il paesaggio terrazzato potrà essere recuperato dall'agricoltura, per tanti motivi, perché non c'è accesso, perché comunque sarà difficile arrivarci, perché alcune zone, diciamo la zona che stiamo seguendo adesso, la zona di Faro Veneto e Terragnolo, sono zone che comunque difficilmente torneranno ad essere utilizzate per l'agricoltura. Ma l'utilizzo dei paesaggi terrazzati è molto altro. Possono essere zone dove appunto c'è l'escursionismo, dove ci possono essere attività di altro tipo. Pensiamo per esempio a quello che è diventato Arte Sella in Trentino, cioè delle zone che prima erano coltivate come zone a bosco, che sono diventate coltivate con l'arte, cioè c'è l'arte, all'interno ci sono delle opere d'arte, ci sono dei percorsi, ci sono migliaia di persone che ogni anno frequentano questi luoghi, e alcuni, diciamo, alla cattedrale vegetale sono diventate ormai delle icone che girano un po' in tutto il mondo. Quindi il riutilizzo del paesaggio terrazzato probabilmente non sarà solamente quello agricolo, bisognerà trovare anche altri utilizzi, che è un po' la sfida che viene lanciata, come si diceva prima, da questa terza conferenza internazionale sui paesaggi terrazzati, che dice il paesaggio del futuro, cioè bisognerà trovare anche nuove funzioni che non siano solo quelle dell'agricoltura. Comunque, tornando all'esempio dei centri storici, tutto passa attraverso il riconoscimento del valore. Cioè se quel tipo di paesaggio è un valore perché ha una valenza paesaggistica, una valenza storica, ha una valenza culturale, come dice spesso il professor Sarzo, che presenta questi paesaggi, dice è un monumento alla fatica, è un monumento alla fatica di generazioni di contadini che lentamente hanno formato questo paesaggio, che ormai insomma è un identitario anche per noi. Dalla carrellata finale del film di Trentini, che mi piace tantissimo, quella carrellata finale sui paesaggi terrazzati, fa vedere una cosa, che noi abbiamo a disposizione chilometri, chilometri e chilometri e chilometri di muri a secco. Quindi è veramente un patrimonio collettivo che non può andare perso.